nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, gentili ascoltatori, buon sabato, prima puntata di questo 2013 di Nessun Luogo è Lontano. I saluti e gli auguri di un buon anno vi arrivano anche da Nadia Zamita in redazione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. E in questa prima puntata del 2013 abbiamo deciso di interrogarci sul ruolo del vecchio continente per i mesi che seguiranno, e quindi 2013, l'Europa che verrà. Che ruolo potrà giocare l'Europa negli assetti geopolitici? Questo è il centro, il cuore della domanda a cui intenteremo di dare una risposta alla puntata di quest'oggi. Ma prima di tutto dobbiamo fare un passo indietro e capire chi è dentro l'Europa e chi si prepara a entrare in Europa. Con il processo di allargamento europeo si intende l'adesione di nuovi paesi membri nell'Unione Europea. Dall'anno della sua fondazione, nel 1957 ad oggi, l'Unione Europea è passata da 6 a 27 paesi membri. Il prossimo Stato a divenire membro UE sarà la Croazia, il 1 luglio del 2013. Il Trattato dell'Unione Europea stabilisce che qualsiasi paese europeo può candidarsi all'adesione a condizione che rispetti determinati criteri di tipo politico, economico e giuridico, che sono stati stabiliti nel 1993 dal Consiglio Europeo di Copenaghen. Questi criteri di preadesione stabiliscono che per divenire membro UE uno Stato debba godere di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, debba garantire un'economia di mercato funzionante e capace di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione, e che debba accettare la legislazione e le prassi giuridiche consolidate dalla Comunità Europea. Il processo di adesione si articola in tre fasi, ognuna delle quali deve essere approvata da tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Nella prima fase, al Paese interessato viene offerta la prospettiva di adesione. Ciò significa che gli verrà riconosciuto lo status ufficiale di Paese candidato, non appena le istituzioni dell'Unione Europea lo riterranno pronto. Nella seconda fase, il Paese diventa un candidato ufficiale all'adesione. Segue quindi la terza fase, durante la quale il Paese candidato viene invitato a partecipare ai negoziati ufficiali di adesione. La fase dei negoziati può durare anche molti anni e implica l'attuazione da parte del Paese candidato di alcune riforme per recepire la legislazione dell'UE in 35 differenti materie, come agricoltura, trasporti, ambiente, energia, giustizia e lavoro. Una volta che i negoziati e le riforme ad essi associate sono stati portati a termine con soddisfazione di entrambe le parti, il Paese in questione può entrare nell'UE, previo accordo di tutti i Paesi membri esistenti. Attualmente, gli Stati ufficialmente candidati all'adesione sono Islanda, Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia. Rimangono per ora potenziali candidati l'Albania, la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo. A questi stati è stato promesso lo status di candidati all'adesione non appena saranno ritenuti in grado di affrontare il processo di riforme e negoziati. Questi erano gli attori, i tempi e i modi dell'allargamento dell'Unione Europea, ma in questo tratteggio, in questo quadro che stiamo tentando di dipingere dell'Europa di quest'anno e del ruolo che giocherà, ebbene, chiediamo lumi a chi è proprio preposto a questo. Allora, Stefano Sonnino, direttore generale del Dipartimento per l'allargamento della Commissione Europea. Cercando di tratteggiare quello che sarà il ruolo dell'Europa e anche la sua configurazione, diciamo anche la sua geografia nel 2013, un ruolo decisivo mi sembra che lo giochi la questione immigrazione. Beh, certo, la questione è particolarmente sensibile per tutti i nostri Stati membri. Quello che noi abbiamo fatto, adesso mi riferisco in particolare all'immigrazione dall'area dei Balcani occidentali, dove c'è stato un processo di liberalizzazione dei visti, e fissare una serie di regole molto precise, anche abbastanza strette, per regolare i flussi migratori. Quindi si tratta di aspetti relativi alla sicurezza, alla sicurezza dei passaporti, ai controlli, alla possibilità di ritornare persone che non stanno rispettando la legge o che sono entrate in maniera irregolare sul territorio dell'Unione Europea. C'è stato un leggero aumento dei flussi migratori in alcuni paesi, in particolare in Germania e in Svezia, di quelli che vengono chiamati richiedenti di asilo, cioè che richiedono di poter rimanere sul territorio dell'Unione Europea oltre 3 mesi sulla base di discriminazioni politiche o religiose. Ecco, aprendo il capitolo di immigrazione c'è, come dire, un piccolo paragrafo che è leader ormai da alcuni mesi, che è questo famoso o famigerato, dipende dai punti di vista, muro o rete di Evros, confine tra Grecia e Turchia, che è un po' emblematico di un'Europa che, dal mio punto di vista, insomma, seguo la questione di immigrazione da alcuni anni, mi sembra che ogni volta che ci sia un hotspot, cioè un punto nevralgico, si va a tamponare, però alla fine poi se ne apre un altro. Una volta erano le Canarie, poi ci fu a un certo punto Ceuta e Melilla, poi ci fu Lampedusa e adesso Evros, che è un po' la nuova porta. Lei ritiene che manchi una visione un po' più lungimirante, strategicamente, no? Un po' più, che guardi un po' più avanti da questo punto di vista? O è un'Europa che si protegge, si chiude e basta? No, io credo che, ripeto, il problema è un problema sicuramente particolarmente sentito e diventa ancora più forte nei momenti di crisi, cui evidentemente le società hanno una tendenza a cercare una tutela, una protezione maggiore rispetto al passato. La questione, diciamo, della immigrazione attraverso la Turchia è un punto importante. Ci sono stati degli sviluppi interessanti nelle ultime settimane, nel senso che c'è un negoziato su due livelli. Da un lato stiamo cercando di chiudere con la Turchia l'accordo di riammissione, che è quello che consente quindi praticamente ai paesi europei di rinviare cittadini di paesi terzi che sono entrati attraverso la Turchia in Turchia, nel caso in cui siano entrati illegalmente sul territorio europeo, e dall'altro lato stiamo cercando di negoziare con loro un processo di controllo delle frontiere e liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi. Ecco, questi accordi con la Turchia di riammissione di cittadini extraeuropei trovati appunto in Europa, ma stiamo parlando anche di potenziali richiedenti asilo o no? E, cioè, per fare un esempio pratico, diciamo, la riammissione copre soltanto e esclusivamente i cittadini che sono entrati in maniera irregolare sul territorio europeo. Quelli che chiedono asilo possono rimanere sul territorio europeo secondo le regole che ogni paese ha per la gestione di questo specifico dossier. Questo, se vuole, è un problema che dovrebbe essere armonizzato a livello europeo, perché ci sono diverse pratiche in diversi paesi, diversi meccanismi di gestire le domande di asilo, e questo evidentemente crea delle disparità e crea anche dei meccanismi per cui alcuni flussi migratori si spostano più verso quei paesi che evidentemente hanno delle politiche più aperte nei confronti dei richiedenti di asilo. Allargando il discorso all'Europa che verrà, diciamo, che è un po' il titolo della trasmissione, in generale, un'Europa allargata è, secondo lei, più forte in un momento come questo, in cui sembra che però vincano più i regionalismi, le frammentazioni? Cioè, qual è il collante che può tenere insieme un'Europa che si allarga? Non è l'euro, perché la divisa comune, dal punto di vista, come dire, ideologico, no? La divisa comune è spesso terreno di scontro e di frizione politica. Che cosa può tenere insieme un'Europa che tende ad allargarsi? Vorrei magari anche ritornare un momento sull'euro, perché poi non è soltanto necessariamente un terreno di scontro, ma anche può essere un terreno invece di cooperazioni più intense, e quello che sostanzialmente sta succedendo, cioè la risposta europea alla crisi economica e finanziaria e anche alla crisi legata alla zona dell'euro sta portando a forme di integrazione molto più accentuata a livello europeo, perché la risposta non può essere che europea. L'altro punto fondamentale che tengo a sottolineare è il fatto che l'Europa continua ad essere dall'inizio un grande progetto politico, un progetto federatore di stabilità, di risposta a quelle che erano le sfide poste dai nazionalismi, dai populismi e dalle altre forme di confronto che hanno purtroppo caratterizzato la storia europea per secoli. E quindi questo continua ad essere un motivo forte, riunificatore per il progetto europeo. Chiedo scusa, la interrompo, però ad esempio in alcuni casi si scontra, no, con questi nazionalismi, con questi regionalismi, vediamo il caso del Kosovo ad esempio, no? Cioè quella zona rimane una zona in cui il particolarismo sembra vincere ancora. Però l'obiettivo è esattamente il contrario, l'obiettivo è quello di riuscire a stemperare in un contesto più ampio, in cui ci siano delle garanzie di carattere più ampio, anche dei problemi nazionalistici o dei problemi locali. La questione non è tanto quello di rendere le frontiere più marcate, ma al contrario quello di renderle più banali, meno importanti, non un elemento di divisione ma un elemento di unione, e questo lo si può fare soprattutto attraverso il progetto di integrazione europea. Se lei pensa a tutte quante le regioni frontaliere e alla cooperazione che esiste tra le differenti regioni frontaliere, Trentino Alto Adige su Tirolo, anche Venezia Giulia in Slovenia, o tra la Liguria e la Francia, esistono, diciamo, in tutte quante queste le zone di confine, la cooperazione tra le zone, tra queste zone di confine, diventa un elemento che può portare sviluppo economico, ricchezza, stabilità, e che annulla quelle divisioni che hanno caratterizzato appunto la storia negli anni passati. Il caso più clamoroso, quello su cui si è basata la storia dell'Unione Europea, è la cooperazione tra la Francia e la Germania. Se lei va a Strasburgo, città simbolo della divisione per molti anni, attraversa il ponte e non si rende conto quando è in Germania e quando è in Francia, perché c'è una tale permeabilità che alla fine diventa irrilevante dove passa fisicamente la frontiera. E Germania e Francia si sono scontrate e combattute per secoli sul territorio europeo. Quindi il progetto è esattamente quello: attraverso l'unificazione, attraverso un progetto politico comune, superare le divisioni e creare uno spirito diverso. Al di là dei richiedenti asilo, dei rifugiati, quindi parliamo di siriani, parliamo di afghani, eccetera, quanto l'Europa può rispondere ragionevolmente a chi semplicemente dice io arrivo dall'Africa subsahariana, non sto in una condizione di discriminazione particolare, eccetera, però me la voglio giocare, voglio andare a mettere il naso nel vecchio continente per capire come farcela. L'Europa che verrà, l'Europa dal 2013 in poi, sarà un'Europa che risponde anche a queste istanze, o semplicemente è un'Europa che andrà a monitorare così tanto e a disciplinare così tanto gli ingressi che sarà un'Europa chiusa, quindi un modello canadese molto disciplinato, neozelandese, con quote, con numeri, con voti, per cui si entra solo con regole strettissime? Qual è il modello europeo che lei vede? Difficile dirlo in questo momento, perché non esiste un modello europeo, ed è uno dei temi, se vuole, più complessi e difficili che si sta discutendo a livello dell'Unione Europea tra i 27 Stati membri. Il dibattito è ancora aperto. Per il momento quello che si sta facendo è cercare un punto di equilibrio tra queste due tendenze, quindi da un lato regolare, nel senso dare la possibilità di entrare, in alcuni casi, sempre che il numero crescente, anche una possibilità di liberalizzare l'accesso al territorio europeo, ma nello stesso tempo regolarizzarlo anche in maniera che non diventi dirompente per le società, quindi o con delle forme, quelle che chiamiamo di migrazione circolare, per cui le persone possono arrivare in Europa, avere una formazione, imparare un mestiere e poi ritornare nel proprio paese per poter, con le competenze acquisite, sviluppare delle capacità economiche in loco, attraverso molto la possibilità di formazione, quindi borse di studio, formazione per studenti, formazione per ricercatori, per professori universitari, ancora una volta per ricreare poi delle capacità capacità di sviluppo all'interno dei paesi di origine o attraverso anche dei meccanismi come le borse lavoro e quindi la possibilità di capire quali sono i segmenti in cui c'è bisogno di forza lavoro che provenga da paesi terzi, che quindi possa essere più facilmente integrata all'interno delle società. Quest'anno il vecchio continente è chiamato a sciogliere alcuni nodi fondamentali, le sfide sul tappeto sono tante, non solo in tema di economia, questa crisi che lo attanaglia ormai da alcuni anni sta mettendo in crisi le stesse istituzioni europee, sta mettendo in discussione, se volete, anche il concetto stesso di unità europea. E poi c'è la politica estera, sulla quale molto spesso, altrettanto spesso, il conflitto fra Francia e Germania si fa sentire. Abbiamo cercato di individuare quelli che sono, potrebbero essere, due fronti sensibili o fondamentali per la politica estera nei mesi a seguire. Uno continuerà a rimanere il Mediterraneo, e lo è stato fin dall'inizio della cosiddetta primavera araba, e poi ci sono i Balcani, e scendendo verso sud e andando verso est, quella grande porta d'Europa che è poi la Turchia. Per capire meglio quanto l'orizzonte balcanico possa essere cruciale e importante per la politica dell'intera Unione Europea nei mesi e negli anni a venire, abbiamo sentito Jelena Milic, analista politico molto nota, direttore del Centro Studi Euroatlantici di Belgrado. Jelena, che ruolo potrebbe giocare secondo te l'Europa nel 2013? EU can continue to play supporter to the reform of institutions. L'Unione Europea potrebbe continuare a supportare le riforme istituzionali all'interno dei vari stati dei Balcani e potrebbe continuare a sfruttare il suo approccio soft power. E quando uso il condizionale lo faccio consapevolmente, perché al momento l'Unione Europea sta minando la propria posizione nell'intera regione balcanica, non riuscendo ad avere un'opinione univoca sull'indipendenza del Kosovo. Ed è ovvio che l'assenza di comune accordo tra i governi europei sullo status del Kosovo sta minando l'efficacia stessa della missione Eulex nel paese. E la stessa mancanza di accordo continua a creare un freno al processo di integrazione europea della Serbia, che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Persino il presidente della Bosnia Erzegovina ha pubblicamente chiesto al ministro degli esteri bosniaco di non riconoscere il Kosovo. Bisogna dire che ai paesi della regione balcanica non sfugge questa mancanza di accordo tra i vari governi membri dell'Unione Europea, e non solo per le questioni legate alla crisi economica e ai temi finanziari, ma anche e soprattutto la mancanza di accordo nell'atteggiamento dei vari governi dell'Unione Europea in molti momenti storici fondamentali della nostra storia recente. Mi riferisco alle divergenze su un intervento militare europeo o meno durante la guerra, alle divergenze rispetto all'implementazione degli accordi di Dayton e altri momenti storici importanti in cui l'Unione Europea ha mancato di avere una posizione ferma. E questo stesso problema ritorna anche adesso. L'Unione Europea potrebbe e dovrebbe continuare a dimostrare di poter affrontare e influire su questioni regionali riguardanti i propri vicini. Hai toccato due punti scottanti, cioè la crisi finanziaria, ma di questa parleremo fra poco, e poi il ruolo dell'Europa come continente diviso fra varie differenti posizioni, oltre che nella regione balcanica anche nel Mediterraneo, per esempio, dove l'Europa potrebbe agire in maniera più forte e seguire una politica più apertamente influente. Possiamo discutere anche di questo, ma innanzitutto ti propongo di cominciare con la crisi finanziaria. Vorrei sapere se i Balcani vogliono ancora entrare in Europa nonostante, ad esempio, la minaccia di default della Grecia, come di altri membri dell'Unione. L'Unione Europea rimane ancora un'attrattiva per i Balcani? Il fatto è che i leader dei governi balcanici stanno utilizzando e anche strumentalizzando l'agenda politica dettata dall'Unione Europea per le riforme pre-adesione, per favorire la loro agenda politica personale, talvolta compiendo progressi positivi e talvolta invece colpevolizzando l'Unione Europea in classici toni populisti o nazionalisti. Proprio per questo motivo l'Unione Europea affronta un problema difficile in questa regione. Ci si domanda se nel percorso di preadesione sia meglio proporre una serie di condizioni molto rigide, oppure se sia meglio accompagnare i vari stati balcanici nel loro processo di riforme istituzionali. Certe volte è davvero difficile decidere quale approccio sia il migliore. Poi, nel caso della Serbia, abbiamo un problema ulteriore. L'Unione Europea sta premendo come condizione per l'accesso della Serbia il riconoscimento del Kosovo, ma questo è un prezzo troppo alto da pagare per il governo serbo. Per ogni piccolo passo avanti compiuto dai politici serbi a Belgrado o a Bruxelles nel percorso di integrazione del paese, ne compiono 3 o 4 indietro in termini di riconoscimento dei diritti umani e di rispetto della democrazia. La politica interna serba sta regredendo e lo stato del dialogo con il governo kosovaro è bloccato. In questa situazione l'Unione Europea sta fallendo nel giocare un ruolo di qualsiasi tipo e questo è molto pericoloso. Il secondo punto che volevo toccare riguarda le potenzialità strategiche e geopolitiche della regione balcanica. Il pubblico italiano ha iniziato a pensare ai paesi del Mediterraneo dopo le primavere arabe e sta comprendendo quanto importante possa diventare la linea di confine europea. Ma per quanto riguarda i Balcani, negli italiani credo rimanga ancora un po' di generale confusione. Potessi spiegarci meglio quali sono i fattori più importanti per cui all'Europa conviene che i Balcani entrino nell'Unione Europea? There is a common knowledge that developed and stable states and international intergovernmental agencies are investing a lot in development aid, in consolidation of democracy. È risaputo che i governi di molti stati più sviluppati e molte agenzie intergovernative stanno investendo molto nello sviluppo e nel consolidamento democratico degli stati dei Balcani. Non solo perché sono buoni di cuore, ma perché vedono che questo è uno degli strumenti utili al controllo dell'immigrazione. It is easier to assume that if the country is better off, if è facile ipotizzare che tanto più uno stato è stabile, sicuro economicamente e politicamente, tanto minore sarà il numero di coloro che cercheranno di uscirne per oltrepassare i confini dell'Unione Europea. E questa può essere una spiegazione degli investimenti compiuti dagli europei verso gli stati del suo vicinato. Ma credo che l'Unione Europea adesso debba dimostrare di poter essere un global player, non solo un global payer, perché occorre dire che l'Unione Europea in questo momento sta perdendo non solo credibilità politica, ma anche economica nel sud-est Europa. Un problema delle istituzioni di Bruxelles è che sono troppo concentrate a dialogare solo con attori e referenti per le sole questioni di diretto interesse europeo, mentre gli altri attori, la cui voce potrebbe essere importante nel processo di consolidamento democratico e della società civile nei Balcani, per adesso vengono ricalciati indietro dalle istituzioni europee. L'ultima domanda riguarda le barriere che la Grecia sta costruendo al confine con la Turchia nella regione di Evros. Dopo aver passato circa un anno a chiedere i fondi europei per innalzare questo muro, si è parlato di circa 3 milioni di euro e così bloccare l'entrata di immigrati irregolari in Grecia attraverso quel confine di 10 chilometri, adesso ha deciso di innalzare comunque questa rete con il controllo della polizia di frontiera. Volevo sapere che cosa ne pensi di questa decisione di chiudere le frontiere europee. Non mi sembra che nel frattempo si sia cercata un'altra soluzione riguardo al flusso di immigrazione clandestina verso l'Europa. Qual è la tua posizione al riguardo? La questione è molto complicata in realtà. Devo ammettere che sono rimasta molto sorpresa quando mi sono recata ad Atene 2 anni fa. Non ero veramente a conoscenza di quanti fossero gli immigrati in Grecia. E la legge sull'immigrazione in Grecia, similmente a quella dell'Italia, non permette agli irregolari di restare in territorio greco. Per cui mi rendo conto che stiamo facendo esperienza, in molte e diverse maniere, delle sfide e dei problemi insiti nello stabilire i confini dell'Unione Europea. E certamente l'idea di allargare i confini dell'Unione Europea a tutti i Balcani occidentali amplifica le preoccupazioni al riguardo. A mio parere, le decisioni politiche prese negli anni 90 fino ai primi del 2000 per gestire l'immigrazione verso l'Europa hanno avuto effetti controproducenti. Nell'intento più o meno autentico di difendere le proprie tradizioni e i propri valori, molti stati europei hanno agito in maniera molto opportunista sulle questioni della tutela dei diritti umani, della libertà di religione, dell'emancipazione femminile. E questo si sta in un certo senso ritorcendo contro di loro. Disco, disco, partigiani! Un'Europa bifronte, se volete, che nella sua politica estera guarda a sud, ma lì non sembra essere troppo lungimirante. L'abbiamo visto nei mesi scorsi, negli anni passati, dopo la primavera araba. È un'Europa che guarda a est e lì, insomma, le sfide sono tante, sono cruciali, non solo tutta la zona balcanica, ma poi, lo si diceva a inizio trasmissione, quella grande porta, quella grande cerniera che è la Turchia. Cerchiamo di capire meglio quanto può essere importante la Turchia e che ruolo giocherà nel 2013. Andiamo a Istanbul. Per andare a valutare quella che è un ruolo cruciale che sicuramente gioca già da un po' e che potrebbe giocare anche in quest'anno che verrà, nel 2013, questo paese che la porta verso Oriente, che è un po' la cerniera, è la Turchia. Alberto Tetta, corrispondente per Osservatorio Balcani e Caucaso, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti. Allora Alberto, partiamo dal terreno, partiamo dai bar, dalle strade, dai mercati turchi. Che cosa pensano i turchi? A che punto è, diciamo, chiamiamolo così, l'emotivometro rispetto all'ingresso nell'Unione Europea della Turchia? Allora, secondo me, se mentre nel biennio 2004-2005 c'era un sentimento di grande entusiasmo verso una possibile entrata della Turchia nell'Unione Europea, negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni, questo entusiasmo è calato molto. E ci sono sondaggi rispetto al supporto, appunto, per una possibile entrata della Turchia in Europa, e anche queste evidenziano che sempre più turchi sono scettici. Un scetticismo che secondo me però è da spiegare, perché più che una disaffezione dei turchi nei confronti dell'Europa, cioè, diciamo, non è più una risposta a un atteggiamento, diciamo, negativo da parte di alcuni stati europei, soprattutto Francia e Germania, nei confronti di un possibile accesso della Turchia. Insomma, diciamo, i turchi che da 80 anni si sentono europei, che hanno come riferimento l'Europa e che vedono in un possibile accesso il coronamento del sogno, no? del progetto repubblicano di Mustafa Kemal Atatürk, si sentono frustrati per il rifiuto che arriva dall'Europa, e quindi questa frustrazione la trasformano in un rifiuto, nel senso: se voi non ci volete, allora neanche noi vogliamo entrare in Europa. Però secondo me rimane ancora forte il desiderio di entrare. Ecco, nella trasmissione di oggi stiamo tentando di tratteggiare quella che sarà l'Europa nei 12 mesi che ci aspettano. Certamente un capitolo fondamentale è quello dell'immigrazione, e stiamo cercando di capire quanto l'atteggiamento europeo rispetto al fenomeno cambierà o meno. Negli ultimi anni si è assistito fondamentalmente a una chiusura. L'Europa si è difesa delle ondate migratorie, basti pensare al caso delle Canarie, Ceuta e Melilla e poi Lampedusa, e adesso c'è quel capitolo confine Grecia-Turchia che insomma inquieta e allarma non solo Bruxelles, soprattutto Atene. In realtà la Turchia rischia di giocare un ruolo suo malgrado. Fonti a Bruxelles ci dicono che, insomma, sono in corso trattative per rispedire al mittente gli immigranti irregolari anche dei paesi terzi in Turchia, e in qualche modo scaricare sulla Turchia, su questa grande porta d'Europa, il problema dell'immigrazione che lì è molto sentito. Certo, il discorso immigrazione è importante. L'Unione Europea ha cercato e cerca da tempo di delegare a paesi ai confini come Marocco, ma come sappiamo benissimo la Libia e anche alla Turchia, il controllo delle sue frontiere. Ma allo stesso tempo sappiamo che i flussi migratori, soprattutto dal 2009 in poi, hanno attraversato il confine terrestre tra Turchia e Grecia, quindi c'è stato un aumento di entrate di migranti senza documenti da quel confine. Quindi l'Europa vuole delegare alla Turchia, diciamo meglio, il ruolo di controllo di quella frontiera. La Turchia però, dal canto suo, sta giocando e sta utilizzando questa paura europea e questo ruolo importante che sa di avere a proprio vantaggio. E infatti Emen Bayiş, il ministro per gli affari europei, ha detto chiaramente che la Turchia è disposta a farsi garante del controllo della frontiera greca-turca, però in cambio della libertà di circolazione per i cittadini turchi in Europa. Ci sono due questioni cruciali che in qualche modo allontanano la Turchia dall'Europa. Una è quella del rispetto dei diritti umani e in particolare diritto di stampa, diritto di informazione, con un gran numero di giornalisti imprigionati. E poi c'è la questione curda, che lungi da essere solo una questione, diciamo il fattore K, se così vogliamo chiamarlo, relativo all'ingresso nell'Europa, sta giocando, giocherà ragionevolmente anche un ruolo nella crisi siriana. Partiamo dalla libertà di stampa e giornalisti imprigionati. Quanto si sente questo problema a Istanbul? Come lo si vive? Ora in Turchia ci sono circa 100 giornalisti in carcere. Oggi è uscito un nuovo report di Reporter Senza Frontiere che critica la situazione di libertà di espressione dopo che lo aveva fatto il Comitato per la Protezione dei Giornalisti qualche mese fa. Il clima è molto pesante, soprattutto anche per chi si occupa di informazione, per chi fa giornalismo in Turchia. Ho diversi colleghi turchi e curdi che lavoravano con me, che hanno lavorato con me dal 2005 e ora sono in carcere. Il problema è che i giornalisti in carcere sono in carcere per quelli che potremmo definire reati di espressione. Lo spiego meglio, ci sono due capi di imputazione importanti per cui i giornalisti ora sono in carcere. Uno è di propaganda terrorista e quindi di vicinanza al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, agli autonomisti curdi, e l'altra è quella di offesa alla turchicità, un reato molto generico sul quale si può inserire qualsiasi critica a istituzioni statali, all'esercito turco, eccetera. In base a questi due reati sono, appunto, come ti dicevo prima, circa 100 giornalisti in carcere. E il problema è che sono molti di loro sono ancora in attesa di un processo, quindi ci sono lunghissimi tempi di carcerazione preventiva prima che inizi effettivamente il processo. I due esempi importanti sono quelli di Ahmet Şükan e di Mişener, che sono stati in carcere, due giornalisti molto importanti in Turchia in carcere perché avrebbero fatto parte di un progetto di colpo di Stato contro il governo di Recep Tayyip Erdogan, e che sono stati in carcere per più di un anno senza essere giudicati. E il governo Erdogan, il governo dell'AKP, negli ultimi anni ha dato il via a una svolta autoritaria che colpisce i giornalisti che sono critici nei confronti del governo e che sostengono la causa curda. Che cosa può accadere, secondo te, in quest'anno, in questo 2013, di rilevante che possa cambiare le carte in tavola della Turchia? Parto dal discorso sulle prospettive future. Io rimango ottimista sul processo di adesione della Turchia all'Unione Europea e penso che, anche se il processo è congelato ora, ci sono speranze che continui in futuro. Però questo può avvenire solamente se il governo Erdogan cambia linea dal punto di vista dei diritti umani e dal punto di vista del processo di democratizzazione. Un esempio in questo senso è la questione curda. In Turchia vivono tra 15 e 20 milioni di curdi. Se ci sono stati dei passi avanti negli scorsi anni dal punto di vista dei diritti culturali, dei diritti linguistici, dal punto di vista politico e anche militare, perché ricordiamo che c'è uno scontro tra la guerriglia autonomista del Partito dei Lavoratori del Kurdistan e l'esercito turco, non ci sono stati passi avanti. Ci sono più di 10.000 politici curdi in carcere, sempre con questa generica accusa di sostegno al terrorismo. E molti di loro sono sindaci, sono amministratori locali, quindi persone elette che rappresentavano una speranza di portare le rivendicazioni curde in Parlamento attraverso vie democratiche. Queste persone sono in carcere e continua anche la repressione e, appunto, come ti dicevo prima, la fase di scontri armati a sud-est tra esercito turco e guerriglia autonomisti del PKK sta attraversando una delle fasi più violente e sanguinose degli anni 90. Dove sta andando l'Europa in questo 2013? Dove andrà? Quali le sfide? Quali i concorrenti nel giocare un ruolo di primo piano nella politica estera e nello scacchiere geopolitico internazionale? Di questo ci stiamo occupando in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Stiamo cercando di tratteggiare il futuro e i mesi che verranno di un vecchio continente che soffre, sì, di una crisi economica gravissima, soffre anche di accessi di regionalismo, di queste tendenze autonomistiche che ogni tanto sembrano minare quella che è la sua unità. Abbiamo individuato almeno un paio di orizzonti sensibili, uno è quello balcanico, l'altro è quello della Turchia, mentre lì a sud, insomma, rimane una zona sempre calda, sempre rimane un motivo di interesse lì il mar Mediterraneo. È ora di tirare le fila e di capire veramente che ruolo andrà a giocare l'Europa. Abbiamo chiesto lumi a Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUISS e fra l'altro curatore del rapporto Nomos e Chaos pubblicato ogni anno da Nomisma. La prima domanda che volevo farti è: nel 2013 quale sarà, se si può fare un'ipotesi, il grande fronte che si apre? Perché insomma i Balcani rimangono, dal punto di vista ad esempio dell'allargamento dell'Unione Europea, rimangono una zona insomma particolarmente cruciale. Abbiamo citato la Turchia, e anche quella, la grande cerniera, è importantissima. Su quale zona si potrebbero concentrare gli occhi di chi vuole guardare un po' avanti e capire cosa accadrà l'anno prossimo? Ma i fronti sono molteplici, ma a mio avviso quello di gran lunga più importante è quello monetario, che concerne il futuro dell'euro. Alla fine è quella la partita decisiva che molto dirà del futuro del progetto europeo. Le opzioni erano e rimangono fondamentalmente due: o l'euro continua a connotarsi come una specie di grande marco che difende il suo ruolo sulla scena internazionale, soprattutto attraverso la conferma, diciamo, della sua forza di attività di riserva che mantiene, diciamo, il suo valore nel tempo, o invece diventa una specie di satellite del dollaro che lo segue, soprattutto quando il dollaro entra in una fase di ribasso. Non è una partita soltanto finanziaria, è una partita geopolitica di impatto maggiore, perché determina l'ampiezza dei flussi finanziari e, diciamo, le direttrici che poi segue il risparmio dei principali paesi del mondo. Tutto ciò premesso, è evidente che le partite invece, diciamo, territoriali sono quelle che concernono il Mediterraneo, e quindi evidentemente il rapporto da un lato con la Turchia, ma anche dall'altro lato con la Russia. La Russia in questo momento è molto presente nel nostro bacino, anche perché in Siria fondamentalmente è impegnata in una battaglia il cui scopo è l'arresto della propagazione della primavera araba. Primavera araba che altrimenti potrebbe raggiungere anche il Caucaso e probabilmente alcune importanti aree della Federazione Russa, che sono anche più a nord, come il Tatarstan. Evidentemente queste sono, diciamo, le questioni più importanti che andranno seguite. Ecco, l'ultimissima domanda riguarda un accenno a quella che è la grande crisi maliana, dove anche lì mi sembra che la partita scacchi Europa, Stati Uniti, insomma, sia interessante. Anche qui la Francia ha, come dire, interessi preponderanti molto forti. Potrebbe essere la crisi maliana un terreno dove l'Europa si fa vedere unita, dove potrebbe giocare un ruolo importante e strategico? Si è parlato dell'invio di istruttori, però insomma il duello con gli Stati Uniti da questo punto di vista è ancora forte. Ma in realtà, da quello che si capisce, Stati Uniti e Francia su questo dossier vanno abbastanza all'unisono. Casomai la difficoltà può sorgere nel rapporto tra francesi e tedeschi, un rapporto che in altre fasi nel Mediterraneo è stato piuttosto tormentato, anche perché a Berlino si fa fatica a riconoscere la preponderanza del ruolo francese nel Mediterraneo. D'altra parte i francesi negli ultimi anni, e non solo, in realtà hanno fatto capire di considerare il Mediterraneo occidentale, in particolare l'Africa, come dei retroterra dei quali valersi per riequilibrare il rapporto geopolitico con la Germania, che sarebbe altrimenti sbilanciato a favore di Berlino. Molto dipenderà, credo, dal modo in cui i francesi e i tedeschi si accorderanno in merito alla gestione di questa crisi, che è comunque molto complessa, anche perché chiama in causa l'Algeria. L'Algeria evidentemente è uno dei bacini da cui si alimenta energeticamente l'Europa, ed è notoriamente abbastanza vicina alla Russia, quindi non c'è neanche da escludere che tutto quello che noi vediamo in relazione al Mali in realtà possa avere come ripercussione anche la destabilizzazione dell'Algeria, che sarebbe una grossa iattura per il nostro continente. È tutto per questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Non mi resta che ringraziare Nadia Zamiti in redazione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, ringraziare voi per essere stati ancora una volta all'ascolto di Nessun Luogo è Lontano. Noi ci risentiamo sabato prossimo, ore 19:15. Un saluto da Giampaolo Musumeci.